edizione. Eccoci alle 6:18 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Lo sguardo come sempre va alle prime pagine dei quotidiani a quest'ora. Prime pagine che aprono sostanzialmente con lo sguardo sulla stessa questione, vale a dire le misure annunciate per lunedì dal governo Monti, in primis sulle pensioni. Pensioni, ecco la riforma, la Repubblica, il Messaggero, pensioni, il piano del governo. Pensioni, contributivo per tutti, il Corriere della Sera. Monti convoca le parti sociali, le pensioni anche per la Stampa. E allora cominciamo da Il Sole 24 Ore, che va nel dettaglio del piano a cui quantomeno si sta pensando. Poi lunedì avremo i dettagli. Donne in pensione a 62-63 anni, scrive Il Sole 24 Ore. Per gli uomini la vecchiaia a 66-67, l'anzianità solo con 41 o 42 anni di contributi. Questo in sostanza quello che prospetta il nuovo governo, che tendenzialmente accelera le riforme di cui si parlava. Sindacati critici, domenica l'incontro, specifica poi Il Sole 24 Ore, che riporta questa mattina anche le altre misure allo studio. Tutto sulle pensioni, peraltro vi ricordo oggi con Il Sole 24 Ore già la guida ai segreti della previdenza in edicola questa mattina. Le altre misure allo studio, vediamo sempre dal Sole 24 Ore. La casa, in arrivo il super ICI su seconde e terze abitazioni e una rivalutazione delle rendite al 15-20%, ancora misure per lo sviluppo, dovrebbe essere potenziato il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il lavoro. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali invece il ministro Fornero punta sul reddito minimo garantito, ma allo studio ci sono anche interventi di sostegno a giovani e donne, vedere quali poi si saprà lunedì, ma forse anche già domenica, quando ci sarà l'incontro con le parti sociali. Riforme vere o sarà cigno nero il ruolo dell'Italia? Così Guido Gentili, sempre su Il Sole 24 Ore, da cui vi segnaliamo anche un'altra notizia, peraltro il caso Finmeccanica che si è risolto, Guarguaglini lascia la presidenza, carica e delega l'amministratore delegato Orsi. Le preoccupazioni naturalmente sono molte per questa riforma delle pensioni, e allora sul Corriere della Sera questa mattina si pubblica una lettera. Io indifeso a 57 anni, se sarò vivo il 30 ottobre 2013 taglierò il traguardo dei 40 anni di lavoro, ho sempre pagato tasse e contributi, andare in pensione a 70 anni quando sento parlare di stretto dei privilegi che vanno via dopo solo 40 anni, mi chiedo se è ancora valido l'articolo 1 della Costituzione. Così la lettera pubblicata in prima pagina del Corriere della Sera, ed è sicuramente questo tema dibattuto di queste ore. Altre notizie, anche se questa, come vi dicevo, davvero è quella che campeggia un po' dovunque, anche qui per il Corriere della Sera, Guarguaglini lascia con 5,6 milioni di euro Finmeccanica a Orsi. Il commento di Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera: il prezzo troppo alto di un addio tra i veleni. Altro sguardo all'Europa dal Corriere della Sera: Sarkozy, l'Europa rischia la fine, ora nuove regole. Il presidente Sarkozy che incontrerà la Merkel per, dice, rifondare l'Europa. Il taglio centrale del Corriere della Sera riporta invece un'immagine del disgelo tra Stati Uniti e la Birmania, Hillary a cena con San Suu Kyi, ve l'abbiamo raccontato anche noi poco fa in GR24, una visita storica quella del segretario di Stato americano in Birmania. Stessa immagine o molto simile quantomeno anche sulla prima pagina della Stampa di Torino questa mattina, la Clinton e San Suu Kyi, una zuppa storica, così titola la Stampa, che scrive: Hillary insegue Eleanor, cuore e diritti nel mondo. L'immagine di Hillary Clinton vestita di bianco mentre cena con San Suu Kyi rafforza l'immagine del segretario di Stato come paladina della difesa dei dissidenti, evocando negli americani il precedente di Eleanor Roosevelt. E poi ancora la Stampa, come sempre molto attenta ai temi esteri e guerriglia diplomatica, l'Iran, l'Europa isola il regime, Roma richiama l'ambasciatore, l'Unione Europea congela beni per 141 società, chiesto l'embargo energetico per l'Iran. Sulla Repubblica, anche qui dicevamo, apertura dedicata alle pensioni, taglio centrale sugli scandali Finmeccanica e Guarguaglini che si dimette. C'è un'altra vicenda, via dall'Italia mai detto, Marchionne che attacca alla FIOM, così la Fiat non può investire. Ieri c'è stata un po' una bagarre sulle dichiarazioni di Marchionne, dichiarazioni rese proprio a Mario Platero a Radio 24, e allora noi ve le facciamo intanto sentire. Abbiamo avuto la maggioranza dei lavoratori che hanno appoggiato un'alternativa. Il treno è passato, è inutile cercare di insistere che bisogna rinegoziare e riaprire il tavolo. Quella decisione è stata presa, non posso rivotare fino a quando non vince la FIOM, ma queste sono elezioni fasulle, non valgono niente. Ecco, lei ha parlato di maggioranza-minoranza, c'è un prevalere della minoranza, dice. La tirannia della minoranza verso la maggioranza, cioè il fatto che uno su 10 dipendenti mi va a condizionare come funziona un'azienda. Ecco, ma e quindi lei ha detto che se questa tirannia continua, la Fiat ha altre opzioni e se ne può andare. No, ma la Fiat non può essere la vittima di questa minoranza. Non può decidere con la maggioranza di fare una cosa, poi si rigira e si trova una decisione presa altrove che è diversa. Io non posso investire così, parliamo di miliardi di euro di investimenti, non mica sto parlando di aprire un supermarket. E quindi le alternative sono di lasciare l'Italia? L'alternativa è una multinazionale, gestiamo attività in tutte le parti del mondo, continueremo ad andare avanti. Abbiamo attività economiche, industriali che stanno di fuori dall'Italia, dove andremo ad andare avanti? Vendiamo macchine in Brasile, le vendiamo in America, in Canada, in Messico, le vendiamo in Cina, da tutte le parti, non importa. La cosa importante di quello che ho detto è che la sopravvivenza della FIA non può essere messa in discussione. Queste le parole esatte, le avete sentite con le vostre orecchie, di Sergio Marchionne a Radio 24. E altre segnalazioni dalle prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Torniamo ancora sul Corriere della Sera, taglio basso del Corriere della Sera, quella che è stata una fonte di polemica sicuramente in Rai. La Rai abolì la parola profilattico, email nel giorno dell'AIDS, è la linea del Ministero che replica nessuna indicazione. Che è successo? Nella giornata mondiale contro l'AIDS, che era ieri, conduttori e giornalisti di Radio 1 hanno ricevuto una email della TV di Stato. Il Ministero ha ribadito che nessun intervento deve essere nominato esplicitamente il profilattico. Il Ministero smentisce questa la notizia traperata però dalla RAI. Dal Messaggero un'altra storia, esame per i prof all'estero, rivolta corrissa al concorso. È successo nella selezione per insegnare all'estero nell'anno scolastico 2011-2012, lo svolgimento della prova di francese all'hotel Ergife a Roma. Ci sono state da parte dei candidati alcune proteste per le modalità di svolgimento. Ebbene, scrive oggi il Messaggero, a un certo punto si è scatenata un'autentica bagarra che ha indotto la stessa commissione esaminatrice ad annullare la prova, facendo slittare anche le altre prove. Il concorso è stato poi prolungato fino a notte tra contestazioni, denunce, caos e incertezza. Chi ha rinunciato si è portato via il libro dei quiz che è finito in commissariato. Un altro concorso per insegnanti che ancora una volta finisce davvero nella bagarre. Alessandro Milan alle 7:20 ancora tornerà con i quotidiani in edicola per altre storie e curiosità anche dalle pagine interne. Noi invece ora con prima edizione, come di consueto, voltiamo pagina e vi raccontiamo invece questa mattina una storia. Ha fondato la comunità monastica di Marmusa nel deserto siriano, con monache e monaci di varie nazionalità impegnati nel dialogo tra cristianesimo e islam. Ora padre Paolo Dall'Oglio, gesuita, dopo 30 anni in Siria, è stato espulso, anche se per il momento è rimasto nel paese, criticato anche per la sua via di uscita dalla crisi siriana. Allora sentiamo il suo racconto al microfono di Katia Caramelli. Le difficoltà di cui ho sofferto e poi di conseguenza anche la fondazione monastica che abbiamo creato assieme, in questo gruppo di fratelli e sorelle siriani e di altri paesi, in questa comunità dedicata all'armonia islamo-cristiana e al dialogo, le difficoltà risalgono ad anni addietro e direi sono dovute all'opacità ambiente di natura politica, opacità culturale, opacità di contesto ecclesiale nel senso largo del termine. Questo ha portato alla chiusura 2 anni fa del Parco Nazionale del Monastero, poi a vietare le attività di dialogo interreligioso, quindi a vietare le altre attività socioculturali, infine nel marzo scorso di fatto mettere tra parentesi per mio permesso di residenza, quindi non sono più potuto uscire dalla Siria. Adesso siamo un po' a quest'ultimo capitolo che si accompagna con la tragedia di questo paese in questo momento. La decisione dell'espulsione già c'è, ma la reazione un po' di tutti mi sembra che lasci uno spiraglio alla speranza, e vedremo nei prossimi giorni come le cose si muovono. Comunque sta avendo tanta solidarietà da giovani anche su Facebook. Beh, questo è un fenomeno interessante, la gente della mia generazione, cioè 57 anni, non è abituata di avere 2500 giovani che su Facebook si sbilanciano e si compromettono a difendere un monaco del deserto. È certamente qualcosa di interessante, riconoscono in noi la nostra attività, la nostra presa di posizione, testimonianza, un simbolo necessario per le evoluzioni siriane in questo momento, riconciliazione nella verità, riconciliazione nella trasparenza, riconciliazione attraverso la libertà di opinione e di espressione, e riconciliazione attraverso un negoziato autentico, aperto, che non preveda vinti e vincitori. Un articolo che ha fatto molto parlare qui sulla democrazia consensuale, proprio una specie di proposta costituzionale. Cioè che la democrazia non può essere vittoria di un gruppo, quanto grande possa essere sugli altri gruppi che compongono un corpo sociale. Prima edizione. Eccoci al momento di Italia in controluce. Italia in controluce. È il 2 dicembre, vi parla Daniele Biacchessi. 3 ergastoli per un delitto i cui contorni sono ancora tutti da chiarire. Gianmario Roveraro, un finanziere milanese, viene ucciso nel 2006. Vengono arrestati e condannati i responsabili. Restano fitte le ombre sugli affari che questo finanziere teneva con l'Opus Dei. Un'inchiesta e un libro ora li ricostruisce. Opus Dei, il segreto dei soldi, ce ne parla Giuseppe Oddo, che insieme ad Angelo Mincuzzi ha scritto questo saggio, ai microfoni di Raffaella Calanda. Siamo riusciti a ricostruire le relazioni che intercorrono tra gli iscritti all'Opus Dei e la prelatura, e abbiamo scoperto una miriade di società, per lo più molto capitalizzate, che detengono immobili in diverse città italiane, all'interno dei quali si svolgono le attività di apostolato dell'Opus Dei. Ma si può dire che Roveraro gestisse un po' un tesoro finanziario dell'Opus Dei? Sicuramente Roveraro era una persona che si occupava molto del sostentamento economico dell'Opus Dei, e l'affare misterioso, questo affare anglo-austriaco nel quale rimane coinvolto e che poi gli costerà la vita, era finalizzato probabilmente al finanziamento dell'Opus Dei. Sicuramente era finalizzato una parte del ricavato di questa operazione a opere di beneficenza. Questo, se non sbaglio, dice anche la moglie di Roveraro. Questo lo dice la moglie di Roveraro, ma lo dicono anche altre persone coinvolte. Un affare appunto poco chiaro, ma resta ancora molto poco chiaro il perché un personaggio come Roveraro risultasse ricattabile da quelli che poi si sono rivelati essere i suoi assassini. Ecco, voi avete incontrato, parlato anche con i banchieri, col mondo della finanza e col mondo anche dell'Opus Dei. Roveraro, che aveva sempre provveduto al sostentamento economico dell'Opus Dei, da alcune testimonianze abbiamo appreso che lui devolve la metà del suo stipendio alla prelatura. Una volta uscito dal mondo della finanza, dopo aver costituito la Agros, le occasioni per provvedere al sostentamento dell'Opus Dei sono diminuite. Probabilmente si è accontentato delle attività di piccolo cabotaggio. Ora, il perché sia finito in operazioni finanziarie con personaggi che erano state coinvolte in vicende giudiziarie, personaggi che erano stati accusati di truffa, che erano finiti in galera, questo oggettivamente rimane un mistero. Erano comunque personaggi che gli erano stati presentati, uno di questi gli era stato presentato nell'ambito dell'Opus Dei. La proverbiale segretezza dell'Opus Dei l'avete verificata anche voi nel tentativo di acquisire informazioni, oppure sono stati collaborativi con voi? Abbiamo avuto degli incontri, però non siamo riusciti ad andare oltre. Un'ultima cosa vorrei chiederti, Giuseppe, è vero che Roveraro portava del cilicio? Una testimonianza che noi abbiamo raccolto da Antonello Zunino, un finanziere, lui aveva un rapporto personale anche di amicizia con Roveraro, e lui ha raccontato questo episodio a Londra, in cui a un certo punto si accorge che Roveraro zoppica un po' e vede che ha il pantalone macchiato, cioè lui gli confessa di aver indossato quel giorno il cilicio, di averlo stretto un po' troppo, perché come sappiamo la pratica delle mortificazioni corporali e di indossare il cilicio, usare la disciplina eccetera, è una pratica a cui ricorrono i numerari dell'Opus Dei, cioè quelli che dedicano tutta la loro vita all'Opus Dei. Era Italia in controluce, avete ascoltato la prima puntata, torniamo oggi, seconda puntata a Radio 24, 13:30. Grazie come sempre a Daniele Biacchessi, e noi invece parliamo d'altro. No grazie, hanno risposto così da Napoli alla, alla proposta del ministro Clini di inviare l'esercito per rimuovere i rifiuti. È davvero di nuovo emergenza a Napoli, come scrivono anche questa mattina alcuni quotidiani. Domani il ministro Clini sarà a Napoli e io saluto questa mattina il vice sindaco della città, Tommaso Sodano, buongiorno. Buongiorno. Lei tra l'altro oggi è in partenza per Roma perché dovrete discutere di rifiuti, giusto? Sì, oggi c'è il tavolo al Ministero per le politiche comunitarie per insieme con Regione, Provincia e il Ministero dell'Ambiente per trovare una soluzione, una risposta da inviare a Bruxelles per interrompere la procedura di infrazione comunitaria nei confronti dello Stato italiano per i ritardi nella gestione dei rifiuti in Campania. È un'infrazione che nasce nel 2007, quindi per la verità, e con la quale dobbiamo fare i conti anche in considerazione delle iniziative che come Comune di Napoli abbiamo messo in campo in questi pochi mesi di amministrazione. E quindi oggi sarà l'occasione per fare il punto a Roma, poi domani a Napoli arriverà invece il ministro Clini, ministro che ha proposto anche l'invio di militari. È davvero di nuovo così drammatica la situazione? Ma no, io infatti spero che l'incontro, la visita del ministro serve anche per rendersi conto che la situazione a Napoli non è come è stata tratteggiata. Abbiamo avuto un giorno di sofferenza per lo sciopero nazionale del settore igiene urbana e con l'adesione degli operatori ecologici, ma la situazione oggi è già rientrata completamente. C'è un deficit strutturale che ancora permane e che chiaramente non è legata a queste ultime vicende, insomma, con la quale bisogna comunque cominciare a ragionare. E non credo che l'esercito serva, noi abbiamo sempre ringraziato i militari per il lavoro che hanno svolto, ma insomma, il problema non siamo in quella condizione, non vorrei che si creasse un allarmismo del tutto ingiustificato. Non serve né l'esercito né servono di nuovo commissari, insomma oggi c'è una nuova classe politica che vuole confrontarsi con il problema, lo sta facendo. Ecco, il suo sindaco De Magistris ha detto: diremo al ministro cosa stiamo facendo perché ora ci sono fatti e non più parole. Cosa è cambiato? Ma è cambiato innanzitutto che c'è la volontà forte di agire sulla raccolta differenziata in città. Abbiamo già finanziato un primo lotto che arriverà a coprire oltre 300.000 cittadini napoletani. E c'era un impegno del vecchio ministro Prestigiacomo per farci arrivare a 500.000 nel primo semestre del 2012, quindi questo è un segno chiaro di un cambio di rotta rispetto al passato. E non sono solo parole, perché in realtà è già partita nel quartiere di Scampia dal lunedì 28 di questa settimana, è partita anche al quartiere Posillipo, quindi sono fatti concreti. Abbiamo fatto dei siti di trasferenza in città, abbiamo un piano con dei contratti già firmati con gli olandesi per trasferire all'estero in una transizione che speriamo duri poco, ma insomma, abbiamo un contratto da un anno prorogabile di un altro anno, e che sono tempi necessari per poter realizzare quegli impianti di cui ha bisogno la città di Napoli. Anche di tutto questo discuterete questa mattina a Roma? Sì, sicuramente, sicuramente, perché sono ponti che rispetto alla parte relativa al Comune di Napoli sono i ponti su cui rispondiamo, perché sostanzialmente l'Europa chiedeva a Napoli tempi certi per la raccolta differenziata, delle aree per lo stoccaggio e ci hanno chiesto anche il piano, il cronoprogramma per le navi che saremo in grado di consegnare anche a Bruxelles. Io le faccio un'altra domanda su un altro argomento, perché noi tra poco avremo l'assessore di Roma per parlare invece di smog e di targhe alterne, un provvedimento che voi a Napoli avete provato, non con la vostra giunta ovviamente, ma si è sperimentato in città. Lei che ne pensa dell'idea delle targhe alterne contro lo smog? Noi in verità a Napoli stiamo puntando molto sulla pedonalizzazione, abbiamo fatto una ZTL molto vasta e puntiamo molto sul trasporto pubblico e anche qui però abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio Monti un tavolo per sbloccare gli ultimi fondi che servono al completamento della metropolitana di Napoli. In questo momento la situazione a Napoli è migliore rispetto alle altre città, quindi non abbiamo l'esigenza di andare a un blocco. Se dovessero esserci superamenti, chiaro che saremo costretti e lo faremo immediatamente. Quello del targhe alterno non credo che sia un problema risolutivo, io lo utilizzerei solo nei casi di effettiva necessità, bisogna in modo strutturale programmato. Grazie intanto per essere stato con noi questa mattina, Vice Sindaco di Napoli, buona giornata. Grazie e buona giornata a voi. E invece lo sta utilizzando questo sistema la capitale. Saluto l'assessore alla mobilità di Roma, Antonella Origemma, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Prima edizione. Targhe alterne dunque a Roma, che ne pensano i romani? Allora, proviamo a sentire, abbiamo raccolto qualche voce, vediamo se riusciamo anche a mandarvela in onda. Cosa ne pensano i romani delle targhe alterne? Penso che sia un provvedimento inutile, perché non è, secondo me non è questa la causa principale dell'inquinamento a Roma. Per me non è un problema perché prendo il treno e uso i mezzi pubblici per spostarmi in città. Credo sia inutile, anche perché un provvedimento del genere non serve assolutamente a ristabilire la salubrità dell'aria a Roma. Giusto, perché così girano meno macchine, meno traffico, meno smog. Assessore alla mobilità della capitale Antonello Aurigemma, com'è andata ieri? È andata molto bene, essendo un giorno festivo, un giorno feriale, siamo riusciti a bloccare il flusso di auto con le targhe dispari dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, ripristinando, riportando nella normalità il livello delle polveri sottili. È giusto ricordare che non è assolutamente una soluzione, né tantomeno il blocco del traffico, né quello di utilizzare targhe alterne. E sono delle misure precauzionali che vengono prese a tutela e salvaguardia della salute dei cittadini nel momento in cui si supera per un tot numero di giorni l'attenzione sul livello delle polveri sottili. Nel frattempo bisognerebbe lavorare a misure più strutturali. Stiamo portando avanti, perché il piano della mobilità prevederà proprio a breve, a pochi mesi, l'apertura di un importante tratto di metropolitana che andrà a ridurre di oltre 2 milioni di chilometri di vetture del trasporto pubblico su gomma e di oltre 5 milioni di chilometri di vetture di trasporto privato. Queste sono le vere risposte che si può dare a livello del problema delle polveri sottili, ma soprattutto le vere infrastrutture che questa città e questi cittadini attendevano da troppo tempo. La stessa linea ci stiamo muovendo anche sulla pedonalizzazione. Sentiva il collega di Napoli prima. Sì, perché essendo leggermente strutturata in maniera diversa, noi da poco abbiamo festeggiato come città 2764 anni, la pedonalizzazione del Tridente sarà la pedonalizzazione del più grande quadrante. Senta, i colleghi milanesi si sono fermati sulla questione di misure così drastiche in settimana, perché c'è il problema che poi la gente deve andare coi mezzi pubblici, perché questo è la questione. Roma reggerebbe misure anche più drastiche in questo momento? Ma noi abbiamo fatto il blocco del traffico due domeniche fa, oggi abbiamo le targhe alterne e grazie al paziente lavoro che ogni giorno svolgono i migliaia di autisti che lavorano sulla nostra città, noi abbiamo avuto prove superate, ma soprattutto prove ben più importanti come quelle del 1° maggio e la verificazione di Giovanni Paolo II, e quindi diciamo abbiamo provato anche situazioni un po' più complesse, quindi sono sacrifici e sforzi che si chiedono di fare e ringraziamo per tutte le attività che svolgono tutti i giorni in un settore così delicato come quello del trasporto pubblico. E ai romani ricordiamo, se avete la targa pari, oggi non si circola, giusto? Giusto. Grazie all'assessore alla mobilità della capitale per essere stato con noi, Antonella Origemma. Grazie, buona giornata, buon grazie venerdì. Grazie a voi, arrivederci. Noi ci fermiamo qui, chiudiamo questa settimana di prima edizione. Torneremo naturalmente a parlare ancora di questi temi in futuro, anche in GR24 tra pochissimo, come sempre. Buon venerdì da Viola Bottoni, Peter Bescapè, da Anna Migliorati.